Vorrei essere la canzone per cui non vedi l'ora di uscire da una galleria, o anche solo quella che ti fa chiudere i finestrini. Vorrei essere la canzone che lasci finire prima di scendere dalla macchina, quella che ti fa sentire che non sei sola nel traffico. E passare come piccole stazioni di provincia appena presa l'autostrada, e restare come gli ultimi ubriaconi per l'ultimo lento a luce accesa. Parà, parà, parà, rapparà, rarà. Vorrei essere la canzone per cui stringi le cuffie di nascosto in metropolitana, o che canti quando sei sola per strada e quando passa qualcuno fai finta di sbadigliare. Vorrei essere la canzone che ti fa perdere il filo del discorso, la canzone che ti dice chi sei senza fartelo capire. E passare come di provincia appena presa l'autostrada, e restare come gli ultimi ubriaconi per l'ultimo lento a luce accesa, e scordare le parole quando suono. Per l'ultimo lento a luce accesa.